Ogni tanto succede una cosa molto carina. Noi a lunedì vi presentiamo i dischi della settimana, li scegliamo, li ascoltiamo bene, quelli che ci piacciono di più e che ci riascoltiamo anche noi personalmente in macchina o con i nostri vinili, li presentiamo a voi. Ogni tanto accade un'altra cosa molto bella, cioè che le band che suonano questi dischi si presentino a Bologna per fare dei live. Boom! È quello che è successo inaspettatamente venerdì scorso al Micasa. Cioè inaspettatamente mica tanto, era pubblicizzato. Era pubblicizzato e noi ci eravamo preparati per questa cosa e siamo andati venerdì sera al Micasa per il concerto. Questo concerto c'erano ben tre band. La prima la lascio pronunciare a te perché ha delle R nel mezzo. Marrano! Senti qua. Marrano! Vabbè. La seconda band è una di cui abbiamo presentato il disco della settimana un paio di settimane fa. Il disco si chiamava Povere Bestie e loro sono Il Corpo Docenti. Se avete voglia di riascoltare Povere Bestie, la presentazione che ne abbiamo fatto, potete farlo cercandolo su radiocittafugico.it o festivalsbackpack.it. Detto questo, dopo questo piccolo momento di pubblicità, appunto, abbiamo scelto di ascoltare live questa band e abbiamo scoperto che sono veramente bravi, hanno una bellissima energia e gli abbiamo anche fatto qualche domanda e sono anche super simpatici. Esatto, noi li abbiamo incastrati prima del concerto di venerdì scorso nel cortile del Micasa e abbiamo chiacchierato un po' con loro, un po' dell'album, un po' di cosa si aspettano dal futuro, di Sanremo, perché comunque è un po' trend topic del momento. Dov'è Bugo? Oh. Dov'è Bugo? Non c'era, Bugo non c'era. Non c'era, sei sicuro? Non c'era, sono sicuro, ho controllato. Ma a chiudere la serata c'era anche la terza band, che è una band che ormai tutti avranno capito che noi amiamo molto, i Cara Calma. I Cara Calma sono venuti a suonare i pezzi sia di Souvenir che di Sulle Punte per Sembrare Grandi, che era il loro primo album, tutti e due album bellissimi tra l'altro, e già che eravamo lì abbiamo deciso di fare qualche domanda anche a loro, in particolare in vista di una data di chiusura del tour che sembra veramente una bomba. Esatto, spoileriamo: il 6 marzo al Serraglio di Milano c'è un super concerto per la chiusura del tour di Souvenir dei Cara Calma, in cui ci saranno tantissimi ospiti. Alcuni sono già annunciati, tipo i Pancreas, per dirne uno. Altri sono ancora lì, ma insomma, verrà nominato anche nell'intervista questo super ospite. Beh, a questo punto, insomma, capirete anche voi dall'intervista che Mauro ha incastrato anche in questo caso Fabiano al bancone. Noi vi assicuriamo che tutti i musicisti che partecipano all'intervista lo fanno in maniera consapevole, nessuno è stato obbligato, nessuno è stato maltrattato per realizzare questa intervista. Adesso vi lasciamo all'intervista a Il Corpo Docenti, un paio di domande anche ai Cara Calma e a qualche pezzo che estraiamo nuovamente da Povere Bestie, che vi ricordiamo è l'album del Corpo Docenti che vi abbiamo presentato poco tempo fa, così se vi viene voglia vi guardate anche le date del tour, perché il tour sta continuando e quindi avrete modo di ascoltarli probabilmente di nuovo qua in zona. La magia di un parco. sbattuto la testa ma non lo ricordi. Ma quand'è che sei stato bambino se non lo ricordi? Qualche volta sono stato bambino ma non lo ricordo. Ma quand'è che ho sbattuto la testa io non lo ricordo. Qualche volta hai sbattuto la testa ma non lo ricordi. Ma quand'è che sei stato bambino se non lo ricordi. Qualche volta sono stato bambino ma non lo ricordo. Ma quand'è che ho sbattuto la testa io non lo ricordo. Ciao ragazzi, siamo con il colpo docenti al Micasa. Partiamo da una domanda banale, molto banale. Perché il colpo docenti? Da dove nasce sto nome strano? No, io ormai sono preso bene a fartela dire a te questa cosa perché va bene, sei diventato bravo. Va bene. Luca, parla Luca. Allora, il corpo docenti in realtà nasce nella primavera del 2017 e praticamente ci siamo conosciuti al CPM a Milano, che è una scuola di musica, e fondamentalmente Federico e Benzo si conoscevano già e suonavano in una band dove stavano già scrivendo inediti ed era già in piedi praticamente un pezzo che era il primo inedito che poi dopo è uscito nell'EP Scivoli, ed era Silenzio. Dopodiché invece d'altra parte io e Federico avevamo un altro progetto a parte, un labirinto sta storia, esatto, era un mix. Praticamente loro due suonavano in una band e noi due suonavamo in un'altra band. Paghetto, facciamone una unica. Esatto, fondamentalmente ci siamo trovati a unire i mondi e Fede, ci serve un batterista, ho detto. Esatto. Ah, conosco lui. Amicizia, conoscenza e via. È andata così. Bene, e questa è la storia del colpo docenti. Sì, esatto, da qui a Bologna. Allora, il 24 gennaio, quindi 2 settimane fa più o meno, è uscito il primo album, Povere esatto. Bestie. Esatto. Sì, esatto. Che è prodotto da Divi dei Ministri. Dove l'avete trovato lui? Il magico mondo dell'internet. Esatto, sì. Il magico potere dei social. Contattato voi? Sì, social, così. Su Instagram, okay. Messaggio secco. Adesso domani si troverà 32.000 messaggi. Esatto. Ehi, produci anche me. No, grande Divi. E voi ci avete un po' questa scuola che viene un po' da influenze Ministri, Fask, anche un po' Italia Calma, che non so se li conoscevate. Insomma, anche loro sono abbastanza recenti. Però se avete anche delle altre cose, un po' di elettronica magari, qualcosina, e anche canzoni un po' più soft invece di tutte quelle picchiate sempre dei Ministri. Sì, sì, sì, esatto. Il resto delle influenze, da dove arrivano? Ma diciamo che tutte e tre siamo comunque tre persone che hanno dei background musicali diverse. Esatto. E quindi c'è, diciamo che quello che facciamo è un po' la somma di quello che siamo noi tre, che ovviamente poi si va a tradurre in un linguaggio rock, che boh, è quello che ci piace fare, però ognuno ha cercato nel disco e cerca sempre di portare un po' della sua storia personale, diciamo così, all'interno del disco. Esattamente. Se dovessimo citarti delle band, mi sa che non c'entrerebbero niente. Un po' spiazzati. Sì, ma poi non c'entra niente, esatto, tipo, esatto. Boh, io ti vorrei dire per esempio Lucio Dalla per questo disco. Esatto. A caso. Okay. c'è un po' però, di tutto, boh, tutti gli ascolti cioè passati, io. Esatto. C'è un po' di tutto, sì. Poi in realtà il lavoro che abbiamo fatto con Divi rispetto all'EP era proprio quello di cercare di trovare un'identità che si discostasse un po' dal giro. No. Mantenere un filone rock, ma cercare aggiungendo di trovare, degli bravo. Elementi. E visto che comunque se in Italia fai rock, bene o male i gruppi di riferimento sono quei 3 o 4. Vai da lui per non fare lui, insomma. Ok, esatto. L'idea è quella di andare da lui per c'era non diventare anche lui. Però insomma un interesse nei confronti dei Ministri. No, ci mancherebbe altro. Le nostre band preferite. E fin lì siamo tutti d'accordo. Allora, vi faccio una domanda molto, molto più scema. Vai. Andrete mai a Sanremo? Ah, qui ci trovi separati, Va, allora, se un giorno dovesse esserci l'occasione, non mi vergogno a dire che io ci andrei. Io ci andrei, per esempio, se è il mio lavoro, l'altro non c'è nel senso. Se ci fosse l'inedito giusto, azzeccato, non punterei a vincerlo. Punterei ad andarci semplicemente per andarci, per fare un'esperienza. Semplicemente questo. Federico è meno d'accordo. Io mi ci vorrei trovare nella situazione prima di dire non lo so. non so, sono molto combattuto. Devo ricordare una cosa, sì. Ci è capitato di trovarci nella situazione, non so se vi ricordate, cos'è che era? La chiamata della ragazza di X Factor. Ah, sì, sì, lì abbiamo detto di no. È vero, avevamo chiesto di no. Sì, per noi eravamo un divi in saletta, stavamo scrivendo il disco e ci è arrivato questo messaggio. Ciao, sì, è vero. X Factor, non, a meno io personalmente non lo farei, secondo me come band non lo faremo. Quello è, diciamo che X Factor è un percorso che ti trasforma, mentre Sanremo forse ti innalza sotto un certo livello, ma non ti trasforma. Sì, diciamo che sono comunque due vetrine che al di là di come nascono sono diverse, poi sono proprio diverse, esatto, per come vengono concepite e come vengono sviluppate poi dopo, quindi... Perfettamente d'accordo. Quest'anno avete seguito? Sì, sì, assolutamente. E gli altri anni? Chi avreste votato? Guarda, non per... A parte Blue and Orange, esatto. Ah, grazie a farlo. No, io l'avrei votato per la canzone, che secondo me era... Esatto, anche a me non dispiace. Tra l'altro stiamo ascoltando il disco in questi giorni qua. Di Bugo. Ed è simpatico, sì. Però io avrei votato Levante. Mi piaceva molto il nanito di Levante. Guarda, devo ammettere che non l'ho ancora ascoltata io anche. A questo punto ti direi, visto che comunque parlavo oggi di Achille Lauro, che però comunque è il pezzo che ha portato, non mi è piaciuto quanto tutta la sceneggiatura dietro, a questo punto io avrei votato Elodie come canzone. Secondo me sì, poi a me nel senso piace come scrive Mahmood, però non mi piace molto il timbro di Mahmood, mentre Elodie mi piace molto come canta, quindi secondo me è una bella abbinata. Poi Dardust, insomma, è interessante, era interessante secondo me la collaborazione. Dardust è abbastanza un genio della musica, è un remedy in quel senso lì, infatti sì, esatto, sì. Quello che tocca lui diventa oro, assolutamente, esatto. Un giorno ti racconterò della vita qui in città, di quanto sia stancante passare i weekend in treno. Sentire una voce che ti legge il quotidiano mentre tu te ne stai lì con gli occhi fissi nel vuoto. L'inverno torno a trovarti, questa volta te lo prometto. Farà freddo e pioverà, tu aspettami ancora una volta e aspettami ancora una volta. Un giorno ti racconterò di quanto costa il sole, di quanto sia appagante respirare un'altra notte in treno. E ci sarà una luce che rimane sempre accesa, ormai è soltanto un vizio addormentarmi mentre ritorno a casa. D'inverno torno a trovarti, questa volta te lo prometto. Farà freddo e pioverà, tu aspetta. Aspettami ancora una volta e aspettami ancora una volta. D'inverno torno a trovarti, questa volta te lo prometto. Non te ne andare via, ho bisogno di qualcuno che mi aspetti. te lo prometto. Non te ne andare via, ho bisogno di qualcuno che mi aspetti. Torniamo un po' a parlare di voi, come stanno andando? Avete già fatto qualche concerto presentando il nuovo album, com'è andata? Questo è il terzo concerto che facciamo però. Sì. Possiamo ancora farlo. Esatto. Beh, abbiamo iniziato il tour suonando all'Alcatraz, perciò direi che è andato col botto, molto bene. Direi. Cioè, eravamo in apertura ai Pancreas, è stata una situazione veramente, veramente bella, eravamo super super agitati, ma quell'agitazione bella, quella che ti permette anche di quella del fare il matto sul palco insieme ai Pancreas, esatto, non capita tutti i giorni. È stato bello, esatto. Poi con loro si è creata una bellissima sintonia, nel senso che gli abbiamo aperto quest'estate una data a Trescore Balneare, al Boom Boom Festival, e da lì è partito qualcosa, che c'è, cioè, una simpatia evidentemente, un affetto, e siamo, niente, ci siamo trovati molto bene. Ci viene il sorriso quando parliamo dei Pancreas. Sì. No, sono delle belle persone, sì. Sono delle gran persone, quindi ci fa piacere anche di essere con loro in un'altra data del tour a Cesena, al Vidia. Quali sono le prossime date nel prossimo futuro? Beh, ora dopo questa abbiamo Varese domani. Poi c'è Verona Prato. Che spoiler, visto che esce mercoledì. Infatti. Quindi oggi dovrebbe essere mercoledì. C'è già stata. Esatto. Vabbè. Beh, c'è Verona. Verona. Prato. Mezzago, bravo. Cesena. E poi, seguiranno news. Sì. Comunque trovate tutto sui nostri social, sulle nostre pagine social. Ragazzi, andate sui social. E fanno bene. Il colpo docenti. Adesso direi, chiudiamo l'intervista con un pezzo dell'ultimo album. Cosa mettiamo? Scegliete voi. Sensi di colpa. C'è anche accordo tra tutti e tre, quindi vada di Sensi di Colpa. Dai. Ok, perfetto. Grazie mille, ragazzi. Grazie a voi. Grazie mille a voi. Adesso andiamo al concerto. Dai. Fabiano, chi hai votato a Sanremo? Non ho votato a Sanremo. Per chi facevi un po' il tifo segretamente, ammettilo? Segretamente per Achille Lauro, ma non troppo segretamente in realtà, l'ho detto un po' a tutti. È lanciatissimo. Sì, sì, Achille è idolo, veramente. Visto che io sta cosa la sto registrando per mandarla in radio, okay. Il 6 marzo cosa diavolo state combinando? Il 6 marzo ci sarà la nostra festazza di fine tour, dopo un anno di tour di souvenir, vabbè, in questo caso l'invernale, si chiude un cerchio e poi chissà cosa succederà. Comunque ci sarà questa festazza al Serraglio di Milano con tantissimi ospiti, saremo noi sul palco più ben 15 ospiti, ragazzi, attenzione, tra cui Pancreas e non so se posso già dirlo perché non abbiamo ancora annunciato. Gianluca ha detto che è una sorpresa. È una sorpresa, va bene, quindi sarà un'altra sorpresa, e tanti gruppi della, insomma, dell'underground in cui siamo abituati a sguazzare tutti quanti. È un modo per far capire comunque apertamente a tutti quanti che c'è ancora gente che si sa sbattere e sa girare l'Italia per i palchi facendo rock in Italia, che è una cosa che sembra essere sparita, in realtà nell'underground esiste ed è ancora molto forte. Grande. Questo ve lo annunciamo alla fine invece che all'inizio. Fabiano dei Cara Calma, grazie mille. Vado via per non sembrare immobile quando scelgo i vestiti da mettere per fare scena, e non è colpa mia se tutto questo sembra una prigione. La libertà te la vendono ad ore, però non fare rumore. Credevo d'essere migliore, che non mi avrebbero preso mai. Chiedere il permesso, il sorriso di chi ha capito tutto, cosa ci rimane? Noi sulle ferrovie, tutto scorre e non tratteniamo niente, mentre aspetto di sentirmi più importante, prima di partire. Credevo d'essere migliore, che non mi avrebbero preso mai. Scegliere la verità come un bambino in un cortile che non capisce ma che capirà. Una luce che ci sfiora come una mano nel momento in cui tu mi hai detto ricordati di me, ricordati di me, ricordati di me.